Un chilo di esplosivo ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia sotto casa loro. È un fatto gravissimo, un attentato inquietante, è un attentato contro la libertà di informazione, contro un giornalista schiena dritta, conduttore di una trasmissione come Report che fa inchieste scomode, molto spesso contro gli intrecci tra politica, criminalità e affari. È un fatto davvero grave, non basta la solidarietà, servono azioni concrete, serve stare a fianco dei giornalisti minacciati e intimiditi, serve rafforzare le scorte che qualcuno vorrebbe cancellare, servono leggi adeguate contro le querele temerarie. Se l'Italia è al 49esimo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa, 3 posti in meno rispetto allo scorso anno, è anche perché i giornalisti minacciati e intimiditi vengono lasciati soli.